in primo piano. Ed è proprio questo uno dei temi che prende le aperture diversificate dei giornali: La Repubblica, La Lega, referendum sui minareti, Minareti allarme dall'Unione Europea per La Stampa, Libero invece anche qui voto sui minareti. Altre scelte sono quella Sole 24 Ore, tagliati consigli e giunte, un interessante emendamento in finanziaria che vedremo, controlli straordinari del fisco su chi si autoriduce le imposte, l'analisi della finanziaria ovviamente allo studio. Il Corriere della Sera, che ieri apriva sui minareti, sceglie la vicenda dei due arrestati che erano a Guantanamo, sono arrivati in Italia, a Milano per la precisione, in carcere. A Milano, due da Guantanamo. E poi insomma altre aperture, il Giornale ancora sulla vicenda Mussolini, vedremo perché ci sono degli sviluppi, ma insomma la vicenda dei minareti, così insomma ricordo anche il nostro sondaggio da votare. Ci sono sia Corriere che Repubblica hanno fatto un viaggio a Segrate, dove c'è la prima, una delle tre moschee ufficiali esistenti in Italia, ed è la prima nata con un minareto, c'è anche la foto, della verità abbastanza piccolo. Un viaggio a Segrate dove gli abitanti, ma anche esponenti politici, dicono: qui ogni fede ha i suoi simboli, sono dal 1988, non c'è mai stato alcun tipo di problema. Ci sono anche vari commenti. Repubblica, per esempio, fa firmare in prima pagina un articolo di Tar Ben Jallun: se l'Islam fa paura agli ignoranti, la democrazia diretta praticata nella Confederazione Elvetica è a volte fonte di aberrazioni, scrive Ben Jallun. È accaduto domenica il referendum contro i minareti, ha ottenuto più del 57% di sì. Che cosa vuol dire? Che si accolgono volentieri i musulmani in territorio svizzero, purché si rendano invisibili, discreti, fino a scomparire dal paesaggio e rinuncino a erigere qualsiasi segno o simbolo che ostenti la loro presenza. Vuol dire che l'Islam continua a far paura. Quel manifesto è al limite del razzismo. Suggerisce idee e minacce che il buon cittadino percepisce come un avvertimento. Il manifesto è quello che hanno utilizzato, insomma, per il referendum, no? In cui si raffigurano minareti neri a forma di missili piantati su una bandiera svizzera accanto a una donna in burka. Effettivamente ha colpito molto, cioè i promotori del referendum hanno usato questo manifesto. Quanto al voto, dice Ben Jallun, non risolverà nulla, ma al contrario non farà che accentuare i contrasti tra la comunità islamica diversa e simile e gli elvetici. Devo dire che critiche ci sono anche da Avvenire. Il no svizzero ai minareti scuote l'Europa in prima pagina, e c'è un editoriale di Giorgio Paolucci: questioni da affrontare senza strumentali leggerezze. Su di essa, cioè sulla decisione, si è innescato per esempio l'ennesimo fuoco fatuo, scrive Paolucci, con sedicenti defensores fidei che pensano di far salire le quotazioni del simbolo per eccellenza del cristianesimo associandolo con sorprendenti nostalgie sabaude alla bandiera del nostro paese. È la proposta del vice ministro Castelli di dire: mettiamo la croce sulla nostra bandiera. L'operazione in verità appare di corto respiro, scrive Avvenire, che insomma poi dice sostanzialmente: in realtà tutti questi alfieri che dicono questa cosa riducono il cristianesimo a un pacchetto di valori strumentalmente preselezionati, usandolo come un'arma da brandire contro il nemico, indeboliscono la forza di quel crocifisso che da 2000 anni continua a provocare le coscienze di ogni uomo e che non è né un cimelio della pietra popolare per cui nutrire un devoto ricordo, né il generico simbolo di una tradizione sociale e culturale, ma una presenza viva che dà spessore alla parola identità, altrimenti riducibile a un'entità ideologica. Chi è a favore? Beh, da dire, il manifesto tra l'altro mette in prima pagina quel manifesto, per l'appunto, usato per il referendum. Mamma gli svizzeri, questo è il titolo, e c'è appunto quel manifesto lì, no? Con la donna in burka, i minareti a forma di missile che poggiano sulla bandiera elvetica. Fermiamoli, questo era il modo con cui è stato chiamato il popolo a votare. La Padania, beh, sapete, la Lega in Italia si è molto espressa positivamente, invece il popolo sovrano ha deciso, questo è il titolo: mai il minareto faccia ombra al campanile. C'è una foto di un campanile praticamente a tutta pagina, in prima pagina della Padania. Come detto, il Corriere della Sera sceglie un'apertura diversa. La vicenda, che doveva per la verità essere segreta e che quindi per questo motivo è ovviamente su tutti i giornali, trasferiti in carcere milanese due detenuti di Guantanamo. Sapete che in passato Obama aveva chiesto, in previsione dello smantellamento di Guantanamo, ai vari paesi alleati di prendersi qualcuno di quegli inquilini, no? Che stavano lì. A Milano sono arrivati, sono tunisini, leggo dal Corriere della Sera, i primi due presunti terroristi islamici detenuti a Guantanamo ad essere trasferiti in Italia dopo la promessa fatta a giugno dal premier Berlusconi al presidente Obama. Si tratta di Nasri Riad e Abel Ben Marouk, abbiamo sentito anche i loro profili in GR24. Una diffusione della notizia, scrive Giuseppe Questel, che non è stata gradita, eccolo qui, dal procuratore aggiunto Armando Spataro, che guida il pool antiterrorismo e il quale ha rifiutato di fare commenti. Avevamo raccomandato il riserbo assoluto sulla vicenda per rispetto dei giudici che devono interrogare gli arrestati. Si è limitato a dichiarare il magistrato. Ci sono i profili di chi sono, due, perché in Italia? Perché furono espulsi poi dall'Italia, sono già stati in Italia, ci sono i profili, insomma, due personaggi che furono espulsi perché con una fedina penale, con sospetti abbastanza inquietanti, sono atterrati ieri sera e sono già nel carcere di Milano dopo essere stati interrogati. Io non ho citato nelle aperture la parola mafia, la parola pentiti, tutto quello che sta succedendo, ma non pensiate che all'interno dei giornali non vi siano ovviamente gli sviluppi, visto che questa è la settimana, ormai lo sapete, in tutte le salse, in cui venerdì, il 4 dicembre, il pentito Spatuzza, quello che ha riaperto anche le indagini sulle stragi degli anni 92-93, parlerà, deporrà al processo in cui è imputato il senatore Dell'Utri, processo d'appello. Frattini, Spatuzza, accuse infamanti da un pluriomicida. Il ministro degli esteri, che rilascia un'intervista a Maurizio Caprara del Corriere della Sera, dice: certo, la mafia è molto consolidata, la dobbiamo stroncare come fa il governo Berlusconi. Poi parla di varie cose, parla più di giustizia più che di altro il ministro degli esteri in questa intervista. Parla anche di Spatuzza: far parlare un pentito sapendo che sta dichiarando cose non utilizzabili e ha orologeria dette 10 o 11 mesi dopo l'inizio del programma di protezione è qualcosa su cui dobbiamo avere risposta. E poi ancora Frattini dice: un ministro degli esteri non interloquisce con un pluriomicida, quindi non rispondo a Spatuzza che dice ho avuto il timore di fare il nome di Berlusconi subito. Traggo però un'osservazione inquietante. Uno che ha avuto il coraggio di compiere omicidi efferati come quelli per i quali è stato condannato fa ridere, se non fosse cosa tragicissima, nel dire avevo paura di fare dichiarazioni. Per Berlusconi è un'accusa infamante dalla quale avrà facilmente la possibilità di liberarsi. E poi anche l'accusa dire: ci sono altri come il sicario Ciaramitaro, che ha riferito che un altro tale Francesco Giuliano gli spiegò che dietro le stragi ci stava Berlusconi. E risponde Frattini: è un elemento del tutto inverosimile. Nella primavera del 93 Berlusconi non aveva neanche immaginato di entrare in politica, decisione che maturò nell'inverno del 93. Perché dico queste date? Perché se andiamo su Repubblica, Giuseppe D'Avanzo oggi vuole proprio con un'inchiesta attaccare questo tipo di teoria difensiva da parte di Berlusconi, difensiva nel senso del giustificarsi. Io nel 93 manco pensavo di entrare in politica. La nascita di Forza Italia e le bugie del Cavaliere. Giuseppe D'Avanzo scrive: Forza Italia nasce nel 93, ma da un'idea covata fin dal 92. Non c'è dubbio che già nell'aprile del 93, quindi alla vigilia della prima ondata delle stragi di mafia di Via Fauro a Roma, il 14 maggio, di Via dei Giorgofili a Firenze, il 27 maggio, è matura la volontà di Berlusconi di mettersi alla testa di un nuovo partito. Questo scrive Giuseppe D'Avanzo poi in un lungo articolo all'interno. Forza Italia, l'atto di nascita, le bugie di Berlusconi, l'annuncio del 94, ma secondo tutta una serie di tappe che D'Avanzo ricostruisce, insomma molto, molto lunghe, se vorrete ve le leggerete, e anche le dichiarazioni, il progetto qui si dimostrerebbe in questo articolo, partì già nel 92 e dunque il fatto che il premier appunto lamenta di essere accusato di cose mai viste a proposito delle stragi di mafia nel 93, perché tra l'altro non avevo ancora intenzione e non avevo maturato l'idea di entrare in politica, secondo Giuseppe D'Avanzo, sono sbugiardate da una serie di dichiarazioni, ricostruzioni che lui fa. Tra l'altro, per la vicenda dei pentiti voglio saltare al Giornale. Il Giornale fa un'accusa molto circostanziata sotto la dicitura giustizia a orologeria, pagina 4. Eccolo qui: i pentiti accusano la polizia. Attenzione, perché l'accusa è specifica nei confronti di un altissimo funzionario dello Stato, vale a dire il numero 2 della polizia, Francesco Cirillo. Nell'articolo siglato GMC, dunque presumo Gianmarco Chiocci, si legge: il vice capo della polizia Francesco Cirillo ha avuto contatti con il boss casalese Carmine Schiavone e risponde al vero che lo ha sollecitato ad accusare Silvio Berlusconi? Sono interrogativi inquietanti sollevati in un'interrogazione dal capogruppo del PDL Maurizio Gaspari e dal senatore Luigi Compagna. Perché ci sarebbe un'intercettazione che il Giornale riporta virgolettata così. Una chiacchierata intercettata in cui Giuseppe Pagano parla con questo Carmine Schiavone, pentito dei casalesi. Don Carmine, come andiamo? E Carmine Schiavone, come andiamo? Sempre in guerra con queste merde del servizio centrale. Se mandi a fare in culo il servizio, quelli non mollano. Pagano dice: ma stai zitto, a me fanno avvelenare tutti i giorni. E Schiavone: dovessi vedere, stamattina li ho cacciati fuori. Carminuccio, questo non lo devi fare perché te li metti troppo contro. Infine Schiavone dice: ma contro io c'ho già da parecchi anni questi, da quando stava quel piecoro di Cirillo che andava cercando che io accusassi Berlusconi. E io gli dissi: ma chi cazzo lo conosce? Insomma, sulla base di questa intercettazione qualcuno dice: non è che quel Cirillo citato è Francesco Cirillo, vice capo della polizia, e che avrebbe, stando a questa dichiarazione di Carmine Schiavone, chiesto al pentito di fare il nome di Berlusconi? Ce n'è per avvelenare un po' i pozzi, insomma, in questa situazione. E intanto Berlusconi dov'è? Berlusconi era in Bielorussia ieri, era a Minsk in visita di Stato. Oggi piovono abbastanza critiche, bisogna dire, perché il leader della Bielorussia, Lukashenko, è considerato, per esempio, definito l'ultimo dittatore europeo dal presidente americano, dall'amministrazione di Bush. Berlusconi ha detto: elogia il leader bielorusso, leggo sul Corriere della Sera, riceve gli archivi del KGB sui deportati. C'è anche su Repubblica Andrea Bonanni che scrive: omaggio al dittatore. Questa la politica per Berlusconi. Dall'altra parte non si sta molto meglio. Nel PD c'è una sorta di rivolta contro una frase che Enrico Letta, vice segretario, ha detto ieri al Corriere della Sera, cioè se Berlusconi sostanzialmente ha detto: non è opportuno, non è adeguato, non è da statista, ma legittimamente Berlusconi può difendersi nei processi e dai processi. E questo dai processi addirittura ispira Il Fatto Quotidiano in apertura a mettere: giravolta del PD, B, cioè Berlusconi, può evitare i processi. Nessuna obiezione al legittimo impedimento del premier Enrico Letta, e Bersani conferma: non da statista, ma legittimo difendersi nel processo e dal processo. Insomma, freme il PD, addirittura il Riformista intervista Fioroni del PD, che il titolo è emblematico: Fioroni contro Letta, ci si difende nei processi, no a inciuci sulla giustizia. Tagliati consigli e giunte, questa, come detto, è l'apertura del Sole 24 Ore. Tra gli emendamenti sostanzialmente della finanziaria c'è questa dell'inserimento della riduzione degli amministratori in comuni e provincia. È una questione legata alla politica, o meglio ai costi della politica, che speriamo davvero vada in porto. Come primo segnale, via il 27% delle poltrone locali, si legge all'interno nell'articolo di Eugenio Bruno e Gianni Trovati. Entra sostanzialmente in finanziaria la cura Calderoli, che taglia giunte e consigli negli enti locali. Si tratta sostanzialmente di un taglio del 24% dei consiglieri comunali, il 18% dei consiglieri provinciali, il 41% delle giunte comunali, il 26% delle giunte provinciali. addio anche ai difensori civici, comunali, stretta alle comunità montane. Insomma, un buon taglio, tanto che i risparmi previsti sono per il sole di 85 milioni per l'anno prossimo, 190 milioni per il 2011, 240 milioni di euro per il 2012. Non tantissimo, insomma, per un bilancio di uno Stato, anzi poca cosa, ma insomma anche il segnale a volte conta, un segnale positivo. Voglio affrontare la questione Mussolini. Mussolini, Fiore, video hard, non video hard, esiste, non esiste. Intanto è identificata la persona che avrebbe messo in moto tutto questo, addirittura proponendolo a Palazzo Chigi. Si tratta di Andrea Cacciotti, il colpo oggi del Messaggero, è l'unico che lo intervista, Massimo Martinelli, si definisce produttore TV. Signor Cacciotti, mi legge la lettera inviata che lei ha inviato a Palazzo Chigi? Gliela dico a memoria. Gentile dottore, l'ennesima lettera che scrivo per informarla che sono in serie difficoltà economiche. Avrei bisogno di svolgere con tranquillità il mio lavoro. Da oltre 20 anni sono un produttore televisivo e non sarei mai voluto scendere così in basso. Le comunico che sono in possesso di un video con una nota politica della PDL in atteggiamenti poco consoni con un europarlamentare che il direttore di un famoso giornale mi ha offerto 1 milione di euro. Sembra un ricatto, mi scusi. Era un grido di disperazione. Ho 2 figlie, stavo andando in malora, mi dovevo suicidare. Chi era il direttore del giornale? Non esisteva. Il video esiste, il video io l'ho visto, però non voglio attaccare la Mussolini. Ma era lei nel video? Sì, era lei. Pure Roberto Fiore, pure lui. A quando risale? Alle regionali del 2005. Insomma, esattamente lei che lavoro fa? Sono un produttore di programmi Rai, ma anche un imprenditore. Ideai un progetto per favorire l'occupazione e dare un sussidio alle casalinghe, ma il governo non lo capì. Ah no? Lo capì Barack Obama. Avete capito bene? Barack Obama. Mi scrisse alla sua segretaria dicendomi di preparare le valigie che sarei andato da loro. E poi non mi hanno più richiamato. Questo è colui che ha scritto la lettera a Palazzo Chigi dicendo se mi date un po' di soldi anzi 1 milione di euro sostanzialmente, ho un video di Mussolini e Fiore. Video su Mussolini e Fiore, ricattatore, candidò Corona. C'è sempre Corona, incredibile. Corona che dice, peraltro no, io non c'entro nulla, ma questo Andrea Cacciotti è stato candidato, è stato il fondatore, pare, del Partito degli Artisti, tra l'altro, e voleva candidare Corona, che subito si è affrettata a dire per favore io in questa storia non c'entro nulla, potrebbe dire almeno in questa. Svergognerò chi mi ha teso il trappolone, è un'intervista che Alessandra Mussolini fa alla Stampa a Maria Corbi, dice il video non esiste. Però i sospetti di chi ha messo in piedi tutto questo, è infuriata con il giornale. Quello che mi fa impazzire è che il giornale, invece, come sarebbe stato corretto, invece di mettere la notizia del ricatto a Palazzo Chigi senza nomi e cognomi, mi sbatte in prima pagina manipolando la notizia. Il video non c'è, vede, qualcuno lo ha visto, è una bufala, una porcheria, una calunnia. Chiederò i danni, girerò l'assegno di Feltri ai bambini bisognosi degli istituti di Napoli. Questa Alessandra Mussolini sul giornale è l'apertura di oggi, il brutto guaio della Mussolini. C'è da dire che oggi il giornale secondo me fa un po' retromarcia, c'è un lungo editoriale di Vittorio Feltri, ma anche l'articolo all'interno dice il tentativo di ricatto c'è stato, del video per ora invece nessuna traccia, la procura lo sta cercando anche se dubita della sua esistenza. Inizia così l'articolo, intanto... Come dire, la frittata è fatta, o meglio, 2 personaggi pubblici sono stati messi in prima pagina con l'accusa di un video. C'è, non c'è, intanto la notizia c'è. E l'apertura del Quotidiano Nazionale, c'è Alessandra Mussolini in prima pagina, video fango, questo è il titolo di apertura. Vi lascio con questo.